Marco e il Gabbiano. Di Enrico Ruggeri. Hai mai seguito il volo di un falco o di un gabbiano? Traiettorie ardite nel vento, dentro al cielo lontano. Io sono così e ho voglia di volare, mentre dico che ti avrò, che ti avrò. Oggi a Milano ci sono i grattacieli, c'è l'Expo, la moda, il design, tutte cose importanti, e come spesso accade ci sono altre cose che non ci sono più e che forse mancano un po'. I Prestinè, i Trani, che erano i bar, quelli un po' alla buona, i navigli verso il centro, le insegne di Piazza Duomo. Soprattutto non c'è più la nebbia. Uno pensa che sia meglio, invece mica tanto, perché la nebbia a Milano aggiungeva fascino alla città, le toglieva qualche bruttezza, smussava gli angoli e soprattutto aggiungeva umanità e poesia. E questa volta voglio raccontarvi una storia che appartiene a quella Milano nebbiosa, popolare, una Milano che ha dovuto cedere il passo alla Milano da bere degli anni Ottanta e oggi alla Milano da mangiare e da vivere con la grande fiera internazionale. La storia è quella di Beppe Viola, che dalla Milano di un tempo era una delle anime più generose, divertenti, umane. Beppe Viola era un giornalista sportivo, ma era anche l'autore di tante canzoni insieme a Enzo Iannacci, di dialoghi divertentissimi pensati per i comici del derby, il mitico locale dove sono nati Cocchi Renato, Teocoli, Abbatantuono e tanti altri, e autore di sceneggiature cinematografiche come Romanzo Popolare, diretto da Mario Monicelli, compresa la bellissima canzone Vincenzina e la Fabbrica, che fu scritta da Iannacci e da Beppe Viola e finì come sigla iniziale del film. E quella lì chi è? Come chi è? Sono Vincenzina. No, così grande. Capito? Ho detto proprio così grande. Sei mesi dopo, esattamente sei mesi e tre giorni, eravamo marito e moglie. E allora mi dicevano, così piccola. Vincenzina, hai guardato la fa. Romanzo Popolare è un film meraviglioso, un film di Monicelli del 1974, è un film nel quale Ugo Tognazzi è un meraviglioso operaio apparentemente di sinistra, progressista, che va incontro agli anni 70, però in realtà ancora impregnato anche da come dire, una serie di limitazioni culturali provenienti dall'Italia del dopoguerra. Quindi un quadro meraviglioso e descrive benissimo le atmosfere nelle quali si muove Beppe Viola. Forse a Beppe piaceva anche la nebbia di quegli anni, di certo gli piaceva una Milano vera, quella che adesso è più difficile trovare, quella delle periferie, di gente che non si vergognava di essere popolare, appunto, perché è in una di queste periferie che Beppe Viola nasce il 26 ottobre del 1939, via Lomellina, che lui sa descrivere come nessun altro. Via Lomellina, in arte via Lomella, era considerata subito dopo la guerra una zona poco raccomandabile della raccomandatissima città di Milano. Città che io amo perché mi ha fatto conoscere il mondo fin da bambino, ma soprattutto perché trovasi a 600 chilometri circa da Roma, posto troppo importante per essere vero. Lui nasce in piazza Adigrat, per l'esattezza, da quella parte di Milano che poi sfociando in viale Corsica arriva in 448 all'aeroporto di Linate. E nei palazzi della piazza l'aeronautica offriva alloggio alle famiglie dei dipendenti e anche a quella dei Viola, perché il padre di Beppe, Mario, faceva il marconista a Linate. Nell'appartamento ci vivono Mario, che arriva dalla Campania, la moglie Cicchinina, che arriva dalla Liguria, i due figli figli Beppe e Pupa. Mario è alto e bello, al fascino della divisa lo usa anche quando si aggira tra gli scranni dell'ippodromo di San Siro, dove si gioca tutti i soldi che guadagna alle corse dei cavalli, ma il fascino e la divisa non gli impediscono di perdere sempre, come quasi tutti quelli che vanno a giocare ai cavalli. Quando perde anche il lavoro è costretto a emigrare, va a Caracas e lascia la famiglia. Beppe soffrirà molto per la mancanza del padre, ma col tempo trova modo di giustificarlo. Nel frattempo mio padre era andato a giocare sui cavalli del Venezuela per via di un licenziamento generale dovuto allo scioglimento della società aerea per la quale lavorava. Penso che mio padre abbia fatto bene a ballarsi i soldi sui cavalli, perché se ne avesse lasciati in giro per casa li avrei fatti fuori io, magari al biliardo, dove tra l'altro si respira anche poco per colpa del fumo. Da allora i figli vedono Mario di rado e dopo un po' più che il padre aspettano quelle rare volte che arrivano dei soldi dal Venezuela. Crescono con la Cicchinina, che è una donna fuori dal comune. Mia madre era una donna eccezionale. Lo capii una mattina quando venne a svegliarmi dicendo: fuori c'è una neve mai vista, fa un freddo cane. Fossi in te non andrei a scuola oggi. Meglio un asino vivo che un professore morto. Nella casa accanto a loro c'è un'altra famiglia il cui padre lavora a Linate. Si chiamano gli Annacci. Anche loro vengono dal sud, dalla Puglia però. Enzo, uno dei figli, ha 3 anni più di Beppe. Iniziano a giocare assieme da piccolissimi nel cortile in comune dei due palazzi. Poi continuano a farlo per il resto della loro vita. A giocare tra canzoni e bevute. Era quasi verso sera, c'ero dietro, stavo andando, che si è aperta la portiera, è caduto giù l'Armando. Commissario, sì, l'Armando era proprio il mio gemello, però ci volevo bene come fosse mio fratello. Beppe Viola ha 17 anni e una carriera scolastica non proprio brillante, come ama raccontare lui stesso quando a fine anno legge sui tabelloni Beppe Viola respinto e replica: respinto? Se non mi conoscono nemmeno, avrebbero dovuto scrivere disperso. Beppe si disperde, soprattutto nei bar col biliardo attorno a casa. Forse è proprio in uno di questi bar che conosce Vito Liverani, a quei tempi famoso fotografo sportivo e collaboratore di una agenzia giornalistica sportiva, la Sport Informazione. Per Beppe, che ha già deciso di diventare giornalista, questa conoscenza è il passaporto per entrare nel mondo dell'informazione. Tanto insiste che alla fine Liverani lo presenta al direttore di Sport Informazione. Così Beppe inizia un periodo di formazione importante, sia per il lavoro che per la vita. Perché di giorno si lavora tanto, ma spesso si resta in ufficio anche tutta la notte, a bere e a ridere. Il periodo trascorso a Sport Informazione è davvero formativo, tanto che il Beppe nel 61 atterna in Rai. Sono gli anni in cui la DC viaggia intorno al 40% alle elezioni, quindi quando durante il colloquio di ammissione gli viene rivolta la fatidica domanda «Lei è comunista?», risponde sommessamente «No». Viene spedito al terzo piano, divide la stanza con altri due soggetti bizzarri come lui, Adone Carapezzi e Ivo Fineschi, anche se per di lì passano ogni tipo di personaggi che Viola descrive brillantemente. Capita di incontrare in stanza vecchi amici, ex collaboratori Rai, compagni di scuola, pittori illustri, aspiranti giornalisti, comparse della TV, uscieri, reduci del 15-18, spogliarelliste e via dicendo. La domenica è il giorno di punta, proprio come accade negli ospedali per le visite dei malati. C'è una cosa che piace veramente a Beppe Viola: la gente. Non c'è niente che sembra divertirlo di più della sfilata quotidiana di personaggi che affollano la sua vita. Quelli del suo ufficio alla Rai, ma soprattutto quelli che popolano i bar, la periferia, gli stadi e l'ippodromo, che anche lui ha iniziato a frequentare come per assolvere a un compito genetico che va ben oltre il sangue e le cellule, passando direttamente al portafogli. Mio nonno aveva la passione delle carte, mio padre dei cavalli, io modestamente tutte e due. Nel frattempo Beppe Viola dà l'esame da giornalista professionista. Il suo esaminatore è un tale Enzo Biagi, che con la sua ironia sorniona gli pone una domanda apparentemente impossibile. Gli chiede: secondo lei in questa DC Fanfani è di destra o di sinistra? Beppe è pronto, risponde: dipende dai giorni. Probabilmente quando Biagi promuove questo ragazzone alto alto con la faccia buona lo fa con grande soddisfazione. Da quel momento Beppe Viola entra di diritto nella ristretta schiera dei giornalisti, ma ne resterà sempre ai margini, un po' per indole, un po' perché il suo stile è così diverso da quello degli altri suoi colleghi e questo non può che allontanarlo dall'establishment. Mi piacerebbe cantare una canzone intelligente che segua un filo logico. Spieghi un po' di tutto e un po' di niente. Questa è la canzone intelligente che farà cantare tutta la gente. Questa è la canzone intelligente che farà cantare, che farà ballare, che farà ballare. Il falco e il gabbiano. Stiamo parlando di Beppe Viola, giornalista sportivo, anche se sarebbe veramente riduttivo chiuderlo solo nel mondo del giornalismo, appunto, perché Viola è molto di più. Ma lo abbiamo lasciato in Rai nel 1961, dove si segnala già per una indole particolare, per essere una persona completamente diversa da molti suoi colleghi. Inizia in sordina, scrive didascalie, bene, in breve tempo diventerà uno dei commentatori sportivi più innovativi nel linguaggio e nella forma. Si inventa uno stile completamente nuovo che ancora oggi i giornalisti del calibro di Curzio Maltese gli riconoscono. Lo stile di Viola era più moderno di quello che è venuto dopo, uno stile ironico, profondamente onesto. Era proprio la milanesità nella sua accezione migliore, cioè c'era di fondo un profondo fastidio per la retorica, e nel calcio la retorica era, diciamo, il pane quotidiano. Alla Rai lo stile di Beppe Viola piace molto, piace più dell'uomo, perché l'uomo è strano, è troppo poco allineato, si chiude nella sua stanza invece di stringere alleanze nei corridoi. Invece di farsi raccomandare come tutti, accoglie soggetti poco raccomandabili, come quella volta che un tizio gli offre di acquistare l'intero carico rubato di un tir, 3.000 carriole. Interessa, dottore? Invece di frequentare i circoli dove scommettere sulla propria carriera, frequenta l'ippodromo dove scommette sulle corse. E Beppe lo sa che con questo modo di fare la speranza di fare carriera e soldi è proprio pochina. E ci ironizza sopra. Tengo duro per battere modestamente il record mondiale di mancata carriera. Solo una volta riesce a ottenere una piccola promozione, ma quasi se ne vergogna, tanto da giustificarsi con l'amico e collega Bruno Fitzul con una delle sue solite battute ironiche. E tra i suoi fiori all'occhiello c'era anche quello di concorrere per essere il dipendente Rai che era... aveva militato più a lungo nell'azienda senza avere nessuna promozione. Una delle poche volte che l'ho visto in imbarazzo nei miei confronti fu quando, a un certo punto, non si sa come, perché lo nominarono capo servizio e io invece non ho mai avuto nessuna promozione, nominamento. Però, dopo aver ricevuto la nomina, mi incontrò e mi disse: Bruno, l'ho fatto solo per soldi. Roma, bella la città, com'è grande la città, com'è viva la città, com'è allegra la città, piena di strade e di negozi e di vetrine, piene di luce, con tanta gente che lavora, con tanta gente che produce, con le reclame sempre più grandi, coi magazzini, le scale mobili, coi grattacieli sempre più alti e tante macchine sempre di più, com'è bella la città, com'è grande la città, com'è viva la città, com'è allegra la città. Intanto l'assunzione in Rai gli permette di sposare la Franchina, che è la ragazza del piano di sopra. Letteralmente si conoscono da quando hanno 3 anni. Il loro è un grande amore. Nascono 4 figlie femmine: Renata, Marina, Anna e Serena, la piccolina. In mezzo a un mondo di uomini che parlano solo di calcio e cavalli, queste 5 donne che lo aspettano rendono i ritorni a casa più dolci. Se in casa il Beppe è così affettuoso quanto confusionario, al lavoro è efficientissimo. A poco Viola riesce a infilare le sue piccole perle linguistiche nelle cronache che abitualmente si confezionano nelle sale di Corso Sempione. L'ironia non viene capita spesso in Rai e gli procura qualche amico vero come Pizzula, al quale Beppe rischia di fare la prima brutta figura. Perché Pizzul è entrato da poco in Rai, arrivato dal Friuli, finalmente gli viene assegnata la sua prima telecronaca. È a Como, spareggio di Coppa Italia, 3 del pomeriggio. Vista la grande occasione, Pizzul per sicurezza esce dalla Rai a mezzogiorno, ma per sua sventura incontra Beppe Viola, che gli chiede dove va, per poi replicare che per Como ci vogliono solo 20 minuti, che c'è tutto il tempo e che l'avrebbe accompagnato lui in macchina. Finiscono a mangiare in un bel posto, a metà strada, e il risultato è che Pizzul arriva con un quarto d'ora di ritardo sulla partita. Per fortuna a quei tempi si andava in differita, ma il rischio fu davvero grosso. Questo episodio non impedisce a Pizzul comunque di apprezzare le grandi qualità di Viola. Era molto molto attento al montaggio, difatti i suoi servizi, oltre che ad essere caratterizzati da questo testo perennemente pieno di ironia, di riferimenti anche letterari e cinematografici, erano particolarmente brillanti sul piano del montaggio proprio, no? Ci sono dei pezzettini che sono veramente straordinari. Insieme alla non carriera di Beppe Viola alla Rai inizia in parallelo una piccola ma importante carriera come autore. L'amico Enzo Iannacci lo coinvolge nella stesura dei testi di alcune sue canzoni, tra le tante la famosissima Quelli che anni dopo verrà usata per la trasmissione Quelli che il calcio. Sempre Iannacci nel frattempo inizia a esibirsi nel famoso cabaret milanese Derby Club. È diventato amico di tutti quelli che lo frequentano, a partire da Cochi e Renato. Con l'amicizia iniziano anche le collaborazioni, perché al Derby Enzo si porta l'amico Beppe e insieme iniziano a scrivere i testi, per esempio per Cochi e Renato. È l'inizio di un'altra brillante carriera. Quelli che non vogliono tornare dalla Russia e continuano a fingersi dispersi, oh yeah. Quelli che non hanno mai avuto un incidente mortale, oh yeah. Il Falco e il Gabbiano. Stiamo parlando di una Milano che non c'è più, ma soprattutto di un milanese che non c'è più e che ci manca, perché ci piacerebbe insomma sentire qualche sua opinione, qualche sua frase al vetriolo sulla situazione, sul mondo di oggi, e respirare ancora la sua grande ironia. Stiamo parlando di Beppe Viola, è il giornalista sportivo, ma definirlo così è un po' riduttivo. E tra l'altro è stato autore di grandissime canzoni, autore per il cinema, per il cabaret, quindi ha lavorato con gente come Iannacci, Dario Fo, Teocoli, Abbatantuono, Cochi e Renato, insomma un pezzo della storia di Milano, quella più vera, autentica, di cui i milanesi devono andare fieri. Lo abbiamo lasciato in Rai e soprattutto al Derby Club, che era il famoso cabaret milanese, fucina di grandi talenti. Beppe Viola per primo, quando presenta se stesso, relega lo sport quasi all'ultimo posto, non perché non ami il calcio e non ne conosca i meccanismi, ma solo perché forse è un po' stanco. Da 20 anni dipendente della Rai TV, passaporto italiano, milite esente, presunto capo di famiglia numerosa, non soltanto ignoravo le regole del football americano, ma non mi era mai neanche passato per la testa di assistere a una partita. Ma lui è un autore prolifico, variegato, curioso, irrequieto, e la prova è per esempio la sua collaborazione con i comici del Derby Club. Lo abbiamo già detto un'altra volta, il Derby è proprio qua di fronte ai nostri studi di Radio 24. Adesso non c'è più, è la palazzina Liberty, dove si trovavano i locali del cabaret milanese più famoso degli anni 60 e 70, oggi è occupata da un famoso centro sociale, il Cantiere. Ma un tempo in quelle stanze si incrociava gente come Giorgio Strehler, Mahler, Dario Fo, gente come Walter Chiari, Marcello Mastroianni, cantanti come Mina, Johnny Dorelli e poi gente della Rai che andava a vedere, a curiosare, non so, Mike Buongiorno, Enzo Tortora, insomma era un'esperienza bellissima. Qui sono nati e cresciuti grandi talenti comici, oltre a Cocchi e Renato, Diego Battantuono, e il locale era stato fondato dagli zii materni di Diego Battantuono, Teo Teocoli e poi Giorgio Faletti. Questo era il derby e Diego Battantuono ricorda ancora oggi come una risata di Beppe fosse il miglior battesimo per un giovane comico. Il gruppo cementa l'amicizia in un altro luogo importante che sarà a 70 metri da casa mia, in Porta Ludovica, poco distante dai Navigli, e un pasticcere pugliese ha aperto un bar che ancora oggi porta il suo nome. Il bar si chiama Gattullo. Al bar Gattullo Beppe Viola si incontra con gli amici Iannacci, Teocoli, e fanno il gioco ufficio facce, cioè si divertono a catalogare gli avventori che entrano per un caffè, decidendo in maniera molto lombrosiana a quale squadra potrebbero tenere, mentre li fissano in modo imbarazzante, quindi chi è interista, chi è milanista e così via. E se andate al bar Gattullo trovate ancora delle foto, testimonianza di quel periodo. Beppe Viola, scrivendo per Cocchi e Renato, approda anche alla televisione, non nella redazione sportiva stavolta, in quella dove si producono i varietà. Quando al duo milanese vengono offerti due programmi in TV, Cocchi e Renato ottengono di poter collaborare con i loro autori, tra i quali naturalmente Enzo Iannacci e Beppe Viola. Dopo un primo spettacolo intitolato Il buono e il cattivo, l'anno seguente arriva Il poeta e il contadino. Siamo nel 73 e il duo ha un successo enorme. Sta qui sempre come un cretino a aspettare i tuoi comodi, per piacere. Io per il lavoro che faccio viaggio molto. Una volta sono stato anche a Genova. Io a Genova ci vado quando mi pare, però non vado in giro a raccontare a tutti questo. Io quando vado a Genova vado da solo e gli altri non ho piacere che vengano a Genova con me. L'unica volta che tu sei stato a Genova c'ero anch'io. Quella volta lì c'ero andato in moto e non c'era neanche il sedile di dietro. Quella volta c'ero. A Genova ho incontrato un signore che con un giro di parole mi ha fatto capire che a Genova c'è il mare. Il mare l'abbiamo avuto anche noi a Milano. Tutto cosperto. Del suo bel andeggio che esso c'è dentro esso andava. Da Porta Ludovica fino in via Farini. Via Torino, tutto uno scoglio. E c'è ancora il pesce adesso in via Spadari. Dietro a quell'area apparentemente pigra e svagata, Viola sta lavorando molto in quel periodo, ma c'è un ma. Per una serie di questioni contrattuali, nonostante l'intenso lavoro, Beppe Viola non può risultare nei crediti dei programmi, così come non può comparire come coautore delle canzoni che firma con Iannacci. Per questa ragione a un certo punto i due amici si separano, per anni non si parleranno più. A Viola spiace che più di una volta Iannacci si prenda tutto il merito delle tante cose fatte assieme, da quelli che agli spettacoli teatrali scritti a quattro mani fino alla bellissima Vincenzina davanti alla fabbrica, la canzone che avevamo già sentito, scritta per Romanzo Popolare. Beppe Viola non scrive solo il testo di Vincenzina, ma assieme a Iannacci si occupa di tutti i meravigliosi dialoghi del film di Monicelli, che esce un anno dopo il successo di Il poeta e il contadino nel 74. Ma anche per questo lavoro prezioso, nei titoli il suo nome non compare. Momento, dove va? Guardi chi è con me. Quanti anni ha? 18 il mese prossimo. Allora, ripresentarsi il mese prossimo. Prego. Dentro qua è tutto sesso e nudità, vietato ai minori di 18 anni. Lei può entrare, testa di qua, lasciare libero il passaggio. Lei intanto non lasciare libero il passaggio. Questa è una scena mitica del film. La voce della maschera del cinema che discute con Tognazzi è proprio quella di Beppe Viola. Si ritaglia una piccola apparizione, un cameo. Il film è bellissimo. è un ritratto di un'Italia che sta cambiando, ne parlavamo prima, le relazioni tra operai e padroni, tra uomo e donna, tra il sud e il nord, il linguaggio è naturalissimo ma al tempo stesso pieno di sfumature, rivela in ogni frase l'immensa sensibilità di chi l'ha scritto. Il suo nome era Cerutti Gino, ma lo chiamavan Drago, gli amici al bar del Giambellino dicevan che era un mago, era un mago. Scrivere per lo spettacolo riempie tutto il tempo che Beppe riesce a sottrarre alla sua vita complicata, tra lavoro, moglie, le quattro bambine. Lo sport resta il primo amore e gli dedica la maggior parte delle energie. In quegli anni il suo principale tentativo è quello di superare la retorica così comune nel linguaggio che i cronisti abitualmente utilizzano allo stadio. A poco Viola riesce a far passare testi sempre più asciutti eppure pieni di citazioni, ironici, spiazzanti, come quando associa i calciatori con la politica. Comodi quindi la nuova stella di San Siro, si chiama Franco Baresi, osservatelo in area laziale, è, dicono, il miglior libero d'Italia, esclusi naturalmente Frede Ventura. Beh, insomma, siamo veramente su un altro passo. Ogni telecronaca e ogni commento di Beppe Viola fanno veramente la differenza. E nel 79 associare a Franco Baresi i nomi dei due terroristi neofascisti ritenuti responsabili della strage di Piazza Fontana avvenuta 10 anni prima è un segno di modernità e anche una coraggiosa presa di posizione molto sottile, considerando anche l'ambiente ultraconservatore della RAI. Nello stesso anno Beppe Viola mette a punto un altro colpo, un servizio che ancora oggi viene ricordato come un classico del giornalismo sportivo. Sotto Natale intervista Gianni Rivera, il mitico capitano del Milan che quell'estate si è ritirato dall'attività calcistica. Bene, decide di farlo in tram. Non ti capita spesso di prendere il tram, Gianni? No, negli ultimi anni direi di no, forse più comoda la macchina. È una frase di Iannacci, dice che nessuno si occupa di quelli che prendono il tram, tu te ne sei mai occupato? Ma penso che ognuno di noi si occupa delle persone che prendono il tram, perché penso che sia la maggioranza delle persone che conosciamo che prende il tram. Beh, è un'intervista che tutti ricordano perché fu un'intervista completamente diversa tra un giocatore molto intelligente come Gianni Rivera e una persona così fuori dagli schemi come Beppe Viola. Anche l'introduzione all'intervista scritta da Viola è un capolavoro di modernità, dalla scelta dei pezzi musicali fino alla commistione nel testo tra cantanti celebri e piatti di minestra nel più puro stile alla Beppe. Sono passati una ventina di governi, i Blatter, i cantautori, le minigonne, il primo uomo sulla luna, il centro-sinistra, lascio raddoppia, tutta roba d'archivio. Lui invece è ancora qui. Qualcuno dice che sta esagerando, che non è il senso della misura. Ha fatto fuori, dicono i suoi nemici, più allenatori e presidenti che piatti di minestra e fidanzate più o meno ufficiali. Altri, i fedelissimi, sono convinti che sia eterno, proprio come Babbo Natale. Sicuramente batterà in resistenza anche John Travolta. Poco prima dell'intervista a Rivera scrive una lettera al suo direttore, capolavoro di amare considerazioni. Dice: ho 40 anni, 4 figlie e la sensazione di essere preso per il culo. Intanto si sfoga, scrive dei libri, uno di questi, Vite vere compresa la mia, nell'edizione originale ha in copertina il suo ritratto disegnato da Altan, che come Beppe Viola collabora con il fumetto Linus, a quel tempo diretto da Oreste Del Buono. Il disegno in puro stile Altan è preciso, gli occhi in giù e le palpebre sempre un po' sonnacchiose, i capelli ricci e scompigliati, il sorriso gentile anche se affaticato, non è proprio il ritratto della salute il Beppe, costantemente afflitto dalla pressione e dal colesterolo alti, si definisce primatista italiano del mal di testa, recordman della coppiata caffè-sigaretta. Fra una sigaretta e un mal di testa, lui trova il tempo di fondare una sua agenzia giornalistica, la Magazine, nel 1982. Con lui lavora un giovanissimo giornalista, Giorgio Terruzzi, che Beppe prende sotto la sua ala protettiva. Alla Magazine passano tutti gli amici, tra questi anche Gianni Mura, che spesso si gode, o forse no, le scelte gastronomiche di Beppe per il pranzo di mezzogiorno. Ovviamente si faceva la spesa a una gastronomia voltato all'angolo con l'Unigiana, dove se era lui a fare la spesa sceglieva sempre le cose più pesanti, tipo nervetti e cipolle, vitello tonnato annegato in una Bologna sempre, in grande quantità, perché è la cosa che più ringalluzziva il colesterolo, secondo Beppe. Per Beppe Viola la Magazine dovrebbe essere la soluzione dei suoi problemi, e soprattutto quelli con la RAI. Dopo 20 anni di reciproca sopportazione è il momento di liberarsi dal giogo della matrigna di Corso Sempione. E forse mentre sta montando la telecronaca della partita Inter-Napoli un 17 ottobre 1982, pensa che manchi poco al momento in cui potrà salutare i colleghi, ma non gli riesce di fare neanche quello. Si definiva collezionista di mal di testa. Forse si era trascurato. A mezzanotte era già clinicamente morto. È andato, disse il dottor Iannacci, ma non si poteva dire per via del trapianto degli organi. Gli occhi andarono a una cieca con 6 figli. Il resto non so. So che ai funerali c'era un mare di gente, anche facce famose dello sport e dello spettacolo, ma soprattutto facce di gente qualunque. Molti del triangolo in cui aveva piantato le tende dalla nascita, ma tanti fuori, alcuni ai margini. Gianni Mura ha scritto questo commovente saluto per l'amico Beppe Viola, perché Beppe Viola muore quel 17 ottobre del 1982, a 10 giorni dal suo compleanno in cui avrebbe fatto 43 anni. Ha un ictus mentre è al montaggio. Arriva in ospedale con l'ambulanza, col cervello già annegato in un mare di sangue, quando la moglie Franchina e il suo medico curante, che è Iannacci Enzo, arrivano nella sala rianimazione del Fatebene Fratelli, lo trovano attaccato alle macchine, senza speranze. Nel libro che una delle sue 4 figlie, quella di mezzo, gli ha dedicato, che si intitola Mio padre è stato anche Beppe Viola, che ve lo consiglio perché è molto bello, Marina descrive molto bene quello che succede dopo la scomparsa di Beppe. Vi leggo questo piccolo estratto. Il fatto è che la sua morte segna anche una nascita che crea confusione e manda in tilt la mia emotività. La nascita di Beppe Viola, caratteristica immortalità. Perché è vero, dal giorno della sua morte Beppe Viola è stato come scoperto all'improvviso, come se il velo che a volte il conformismo dell'epoca voleva per forza mettergli addosso sia caduto, lasciandolo libero, manifesto. È un peccato che il rispetto e la considerazione che si meritava in vita siano arrivati solo dopo la sua morte, ma il nostro paese è fatto così, spesso non è capace di riconoscere e apprezzare l'ironia, neanche quella piccola dose di eccentricità che alcuni esseri hanno e che rende il mondo più interessante da osservare. Beppe Viola era uno di questi esseri. Beppe Viola, una persona che ci manca, una persona che potrebbe farci sorridere oggi e aggiungere tante cose a questo mondo sul quale c'è molto da ironizzare. Ci sono storie di persone che nella loro vita hanno saputo dare questo colpo, la storia di chi è riuscito, di chi ha tentato. Ognuno di noi può avere dei colpi d'ala. Bene, se volete mandarci dei commenti, scrivete al falcoilgabbiano@radio24.it, oppure venite a trovarci sulla pagina Facebook, oppure venite a cercarci, insomma, quando volete, se volete, mi trovate. E se qualche puntata ve la siete persa, sul sito di Radio 24 c'è il podcast. Ciao, a domani. Il Falco e il Gabbiano, un programma di Enrico Ruggeri. Testo di Francesca Filiasi.